A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Una sera, verso l'ora di cena, è squillato il telefono e Marco è andato a rispondere. Io ero accanto a lui e l'ho visto impallidire. Io gli ho chiesto ma chi era, e lui prima ha cercato di minimizzare, di dirmi nessuno, hanno sbagliato numero, ma mi sembrava troppo turbato e ho insistito per avere una risposta e mi disse appunto che lo avevano minacciato, che era una delle brutte telefonate che riceveva. Quella sera stavamo aspettando Marco per la cena, avevo messo a bollire l'acqua della pasta e quando mi hanno chiamata e sono scesa e c'era Marco riverso sotto al portico, la bicicletta rovesciata, la sua borsa con le sue carte per terra, le chiavi. Mi sono guardata attorno e ricordo che c'era un maresciallo dei carabinieri e tanti ragazzi, una decina di ragazzi che mi guardavano con occhi attoniti, soprattutto quando ho immediatamente detto lo hanno ucciso. Il maresciallo mi ha detto ma chi è questa persona? Io ho detto lo hanno ucciso le Brigate Rosse. Furono proprio le Brigate Rosse, come sospettò immediatamente Marina Orlandi, la vedova di Marco Biagi che avete sentito in questa intervista alla Storia Siamo Noi. Furono le BR e uccisero un consulente del governo che tornava a casa solo a Bologna con la sua bicicletta e senza scorta. Un altro giuslavorista ammazzato, come era già successo a Massimo D'Antona. 12 anni dopo il delitto, la Procura di Bologna riapre però l'indagine sulla mancata difesa per Marco Biagi con l'ipotesi di omicidio per omissione sulla base di nuove carte secondo cui l'allora ministro dell'Interno sapeva dei pericoli corsi dal professore bolognese. Il 19 marzo 2002, Marco Biagi cade sotto il portico di Via Valdonica a Bologna. Marco Biagi cadde ucciso dagli ultimi irriducibili brigatisti, anche perché era stato lasciato solo. Gliel'avevano detto già a loro al telefono in una di quelle terribili telefonate di minacce che precedettero la sua morte. Anche per questo Biagi si allarmò, si preoccupò, bussò a tutte le porte per cercare di conservare una tutela, revocata invece per effetto di quel riordino delle forze dell'ordine dopo l'11 settembre. Ma questo non avvenne, lui fu ucciso e il processo per la mancata scorta finì in archiviazione, anche se noi sapevamo perfettamente che al Viminale erano a conoscenza delle minacce, racconta con la stessa veemenza dell'epoca l'ex procuratore bolognese Enrico De Nicola. Ora che i suoi colleghi hanno riaperto il caso, ora che un nuovo atto chiama in causa direttamente l'ex titolare dell'Interno Claudio Scajola, una lettera dell'allora ministro Maroni che gli aveva parlato proprio della serietà del pericolo corso da Biagi, lettera da lui vistata e riemersa ora dall'archivio conservato dal suo ex segretario Luciano Zocchi. Sapevamo tutto, ma non potevamo fare niente, commenta con rabbia il procuratore De Nicola. Sapevamo già tutto, però ci è stato taciuto dagli organi amministrativi che erano attorno al ministro, mentre invece avrebbero dovuto se l'avessero avuto. Io non so dire se ce l'avevano o non ce l'avevano. Già sapevamo che il ministro Scajola era informato di tutto, ma non avevamo nessuna notizia circa le note scritte che gli avevano rilasciato. Noi sapevamo che il ministro Scajola sapeva tutto, essendo stati informati dalla famiglia Biagi, da coloro che stavano vicino a Biagi e che conoscevano bene Biagi, i quali, quando è accaduta la cosa, dice: ma noi avevamo avvisato. E c'era anche Casini che sapeva. Per cui tutto questo era stato detto e comunicato a Scajola anche prima. Ecco, facciamo un passo indietro, perché appunto sono anche passati parecchi anni. Ecco, il ministro Scajola in quel momento era appunto il ministro dell'Interno. Quindi voi sapevate che da queste informazioni che vi arrivavano dagli ambienti più vicini al professor Biagi, che lui, quindi il più alto in grado alla Viminale, era al corrente dell'effettiva concretezza dei pericoli a cui andava incontro. Perché la famiglia che vi raccontava che Scajola era informato. Vi riferì anche di queste informazioni che l'allora ministro Maroni gli avrebbe girato? No, di Maroni non me ne parlarono, mentre invece io sono convinto e sicuro che me ne parlarono Casini, l'ex ministro del lavoro Sacconi, direttore generale della Confindustria, Parisi, e cioè erano costoro che ci avevano detto quello che era accaduto. Però noi agivamo sulla base delle relazioni che ci avevano fatto direttamente dal ministero, ed era una relazione che riferiva in modo puntuale e fatta molto bene tutti i fatti, ma non questi particolari. Quello che ci ha portato a concludere, non per l'archiviazione, ma per la richiesta di proscioglimento al GIP di coloro che erano imputati davanti a noi, sulla base delle relazioni che ci erano state fatte dal Ministero e che erano state confermate in sede istruttoria, tutto questo ci ha indotto a ritenere che non erano responsabili affatto della cosa né il questore di Bologna né il prefetto di Bologna, che infatti erano stati gli ultimi a revocare la scorta, e i primi sono stati Roma e prima ancora Milano. Roma, Milano e soltanto successivamente Bologna, e che ha resistito a tutte le pressioni di revoca della scorta che venivano fatte da Roma e non soltanto dal ministro direttamente, o comunque dal ministero e da tutti coloro che circondavano il ministro in quel periodo. Quello che lei ci sta raccontando e sta ripercorrendo quel momento in cui al professor Biagi fu progressivamente tolta la scorta nelle città dove lavorava e che frequentava, quindi a cominciare da Roma, poi Milano e da ultimo Bologna. Ma quello che voglio capire è: tutte queste persone che avevate sentito e che lei ora mi dice ci avevano raccontato che avevano informato i vertici del pericolo a cui andava incontro Biagi, vi avevano esplicitamente detto che anche il ministro, allora ministro dell'Interno Scajola, era informato di queste minacce? Mi avevano detto che era stato informato, Però questo non è stato sufficiente ad andare avanti nelle indagini, nel Sione. Sono rimasto molto colpito e addirittura impressionato dal fatto e dal comportamento del ministro. Ma non bisogna dimenticare che tutto questo era avvenuto sulla base di atti ministeriali e di circolari e di ordini ministeriali a livello amministrativo che erano stati dati anche a Bologna e alla fine, e che Bologna aveva resistito, il questore di Bologna e il prefetto resistettero a tutte queste pressioni fino a quando non gli dissero: voi dovete fare così e dovete agire così. Questo sulla base non di un provvedimento singolo del ministro, ma di un provvedimento del potere esecutivo. Tant'è vero che noi, nella, se lei legge la requisitoria che facemmo, nella quale chiedemmo il proscioglimento, noi mettemmo ben in evidenza le responsabilità dello Stato e del potere esecutivo come tale. Di macroscopiche colpe dell'apparato parlarono i PM bolognesi e sui concreti pericoli proprio per le figure cerniera come Biagi avevano già messo in guardia i servizi segreti. Eppure il professore fu lasciato solo e il Viminale fece di tutto per autoassolversi, ricostruirono gli inquirenti. A ciascuno il suo. Non desidero fare nessuna commento né dichiarazioni né nulla, lascio che sia tutto, si gestisca a livello di procure. Ho visto un po' di troppo fumo, un po' di polemiche. Ora che è stato anche convocato dai PM di Bologna, Luciano Zocchi, già capo della segreteria di Claudio Scajola, si trincera dietro il silenzio, dopo le accuse ricevute dalla difesa dell'ex ministro proprio per i suoi racconti sulla mancata scorta a Marco Biagi, una delle vicende più drammatiche della nostra storia recente, una delle pagine più tristi, anche per quella coda di insulti destinati al professore bolognese da parte di chi avrebbe dovuto invece difenderlo. Era un rompicoglioni, disse l'allora ministro dell'interno Scajola, che poi proprio per questo lasciò il Viminale, ma che mai fu toccato dalla prima inchiesta sulla mancata scorta, nonostante il SISDE avesse messo nero su bianco che proprio le figure come Biagi, le figure cosiddette cerniera, erano le più a rischio terrorismo, nonostante le richieste ripetute da più parti perché non fosse tolta la scorta al professore che riceveva molte minacce, nonostante insomma quelle che l'ex procuratore di Bologna Enrico De Nicola definisce macroscopiche responsabilità che non si tramutarono mai in contestazioni concrete. Ora però una nuova inchiesta è stata aperta per omicidio per omissione e riparte proprio da lui, riparte dall'ex ministro per una lettera da lui vistata che è stata ritrovata dopo 12 anni, anche se già all'epoca le responsabilità amministrative di uno Stato che non seppe difendere un suo collaboratore furono provate anche in sede giudiziaria, tanto che la famiglia Biagi fu risarcita in sede civile, ricorda il procuratore De Nicola, che definisce questa la vicenda che più l'ha scioccato. Questa colpa ha consentito alla famiglia Biagi di ottenere in sede civile il risarcimento e lì c'erano anche responsabilità amministrative, perché c'erano dei provvedimenti che non facevano capo al Ministero nel suo complesso e che erano stati presi concernenti l'abbattimento del denaro per le scorte di tutta Italia. Quali dovevano essere o quali non dovevano essere le scorte da mantenere o no, non era una questione che io ho ritenuto come magistrato di sindacare. Ricordo benissimo, la vicenda era il Viminale che aveva deciso un taglio a tutte le scorte dopo l'11 settembre, quando c'era stata una riorganizzazione dell'utilizzo di tutte le forze pubbliche. Brava, vede, ecco, che mi aiuta lei. Assolutamente, lo ricordo molto bene, e quindi progressivamente erano state tolte queste scorte. Lei prima però diceva che appunto voi sapevate perfettamente che l'allora ministro Scajola era informato Noi lo abbiamo saputo dopo la morte evidentemente di Biagi, quando facevamo i processi della revoca della scorta, attraverso una prima relazione fatta dal ministero, dal prefetto Sorge. Esatto, e sulla prefetto base Sorge. Di quella relazione che noi partimmo e facemmo tutte le indagini in merito. Quelle lettere non ci sono state consegnate, ma ci sono state consegnate dagli organi amministrativi tutte le relazioni che avevano fatto e tutti gli accertamenti che avevano fatto in sede amministrativa. Ecco, vi avevano consegnato questo da Roma, però lei prima diceva da Roma non ci avevano dato informazioni e non avevano fatto in modo che noi avessimo tutto il quadro della situazione. Noi l'abbiamo avuto non da Roma, Ma dopo, attraverso, sentendo i testimoni, abbiamo saputo tutto. Cioè, si erano attivati presso il ministro dei personaggi molto importanti per cercare, prima che morisse, non far revocare la scorta di Biagi. Il Viminale non ha in qualche modo collaborato fino in fondo con voi? Voi avevate soltanto questa relazione, non ha fatto in modo... No, noi abbiamo fatto le indagini e loro ci hanno comunicato questa relazione, sulla base di questa relazione abbiamo agito, ma noi abbiamo chiesto tutto quello che era accaduto, dovevamo saperlo, perché non, siccome davano la colpa al questore e al prefetto di Bologna, noi volevamo sapere da Roma, loro avrebbero dovuto informarci. Ora, tutto questo, no, da questo punto di vista, non è accaduto nei particolari, non sono stati loro che ci hanno informato, sono stati altri, e quindi noi lo sapevamo, ma non direttamente da loro. Quindi, in sostanza, quella relazione che voi avevate, la relazione Sorge, mandata dal Viminale, in sostanza copriva anche parte delle responsabilità del Viminale stesso, a cominciare dall'allora ministro Scajola. Quello che interessa a me è affermare è che io non ho proceduto sulla base degli atti che avevo, non ho ritenuto, pur essendo di fronte a macroscopiche responsabilità amministrative e politiche ed amministrative, politiche del ministro che era stato avvisato, amministrative di coloro che dovevano interpretare e dare esecuzione con provvedimenti amministrativi ai decreti che la commissione speciale aveva stabilito per le scorte, questo era materia che non poteva la magistratura toccare in quel momento, perché si avrebbe sindacato queste conoscenze, addirittura mi sconvolgevano come uomo, come cittadino e come magistrato e come persona. Non potevo darle alla stampa o dire alla stampa quello che c'era. Ecco, tanto ecco, procuratore, la stampa sicuramente era a conoscenza attraverso Sacconi, attraverso Casini e la stessa famiglia Biagi, che avevano pubblicizzato, lamentato, urlato queste cose. E poi, come ricorderà, furono anche pubblicate le lettere che lo stesso Marco Biagi aveva mandato a tutte e queste persone. E poi le lettere di Marco Biagi, però, con la sua richiesta di difesa. I brigatisti stavano a Roma in quel momento, certo. Non stavano certo a Modena, il pericolo era a Roma, il pericolo era più a Milano, solo perché Biagi viveva a Bologna, è stato colpito a Bologna. Deve leggere soltanto quella parte della requisitoria scritta direttamente da me, o anche del giudice istruttore, del provvedimento del giudice istruttore che poi ha accolto integralmente la nostra richiesta, e si rende conto, c'è una parte in cui dice perché la responsabilità era politica ed amministrativa, e che quindi noi ci fermavamo lì e dicevamo non sono responsabili coloro che voi ci avete detto come responsabili. Voi avevate l'impressione che al Viminale cercassero un po' di autoassolversi? Certamente, questa la avemmo e cercammo di recuperarlo proprio sentendo gli interessati, i politici interessati. Quindi voi avevate questa sensazione molto forte, immagino neanche tanto piacevole, di un Ministero dell'Interno che invece di aprirsi completamente cercava di coprirsi. No, io le dico la mia sensazione, ma era una sensazione che non poteva essere tradotta in un'azione giuridico-penale. E questo è chiarissimo. Ma che avrebbe dovuto essere tradotta in un'azione politica e amministrativa pesante, politica nei confronti del ministro, e cosa che non avvenne subito ma solo dopo per aver detto quelle parole, e amministrativa non giustificata per gli errori che erano stati fatti nella questione della scorta per quanto riguarda i prefetti che erano attorno al ministro e che dovevano riferire alla magistratura. Sì, lei fa riferimento ai capi della segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Giuseppe Pecoraro e Giuseppe Procaccini. Tutti ricordiamo molto bene sia appunto le parole della sua sua requisitoria sia il fatto che lo Stato risarcì la famiglia Biagi, come ricordiamo molto bene anche la lettera che la vedova Biagi, Marina Biagi, mandò al processo vostro a Bologna, in cui scrisse proprio che lo Stato aveva abbandonato suo marito, e tutti questi elementi portarono anche al risarcimento da parte dello Stato. Lei ha capito tutto. Alla professor Biagi. Lei adesso chiaramente lo vede dal di fuori, ma che cosa pensa di questa contestazione che i suoi colleghi bolognesi hanno mosso per omicidio per omissione? È evidente che è una contestazione che non ritengo possa svilupparsi e che... Ma non, io non voglio parlare della decisione presa dai colleghi. Una delle storie che mi ha sconvolto dal punto di vista morale, civile, da cittadino, ma ho dovuto fare il mio dovere e l'ho fatto fino in fondo. E voi che cosa pensate di tutta questa brutta vicenda della mancata scorta al professor Marco Biagi e del ruolo dell'ex ministro Scajola? Se vi va, scrivetecelo sulla pagina Facebook di Storiacce, ricordate Storiacce, oppure sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.